niente di quel che ho, neanche un minimo brivido. Ora no, it's the air that I breathe, it's my fault. Scatto di...